l'orchestra giovanile di jazz, forse mi sentite anche adesso, non lo so, ma moderata anche io. Adesso Bernardo Fazzotto, Francesco Martini, Stefano Martini, e Filippo Piantino, questa registrazione in chiave jazzistica di Duke Ellington e Chris Taylor di Anitra's Dance, cioè della danza di Anitra del Perdite di Hitler, uno dei temi di quest'anno con cui affrontiamo la musica, il repertorio di ogni anno con questa orchestra, cercando di darci un tema e quindi cerchiamo di seguirlo. Quest'anno il tema si chiama Ritratti, quindi abbiamo provato a lavorare sulla musica estetica in senso lato, quindi mi piaceva cominciare con un caposaldo della musica descrittiva, che è questa che è appunto per Nietzsche di Krieger, nella versione secondo me rivoluzionaria di uno dei maestri del jazz, tra i miei musicisti preferiti, che è Duke Ellington. Adesso invece ci spostiamo in area decisamente più pop, se così si può dire, e facciamo una canzone di Natale, però con un progetto jazzistico si chiama anche questa. E fra queste sono apparsi dei pezzi che sono diventati per noi dei nuovi standard, e uno di questi è anche un titolo evocativo per cui mi piacerà ancora di più, ovvero è scritto dal nostro pianista Andrea Safilio, si chiama Achille e la tartaruga. Thank you. approccio con la musica interessante perché non si ripete mai, cioè sono sempre gli accordi però non sono più aperto ma allora è matto, te lo fa sentire a livello. Eppa, e perché ho finto con me? soluzione sterminata. Quando era ragazzo aveva formato, come si fa spesso quando era ragazzo, una festa con gli amici, con un paio di classe, quindi questi erano i ritardi. Poi sono arrivato a casa di Boston, che era la sua città natale, hanno cominciato a suonare le feste scolastiche. E lui ha deciso se fare il pittore, cosa che lui aveva sicuramente talento, ma anche aveva talento per qualche cosa, era una persona sicuramente geniale. Ha scritto questo pezzo a 16 anni e l'ha intitolato solo contemporaneo. Lo ha suonato in realtà soltanto in Los Angeles, ma in una sola registrazione, che c'è un frammento, però non siamo riusciti a imparare una versione professionale. Solo a contemporaneo. Thank you. Avete tornato. Jacopo Piovi sta la testa. Andiamo verso la fine del concerto con un omaggio che mi sono sentito di fare alla grandissima compositrice che è scomparsa da poco, Carla Bley, e suoniamo un suo pezzo che mi è particolarmente caro, si chiama Ups and Downs. Thank you. Michelangelo. Adesso vi facciamo un breve pezzo di Natale, anche questo è stato selezionato accuratamente, è difficilissimo perché sono una miriade. Ci sono questi cosiddetti real books, che sono le raccolte di standards, cioè di canzoni americane, dove sono migliaia. Gli americani non fanno altro che scrivere pezzi sul Natale, passano 364 giorni a comporre questi pezzi e insomma sono carini, però insomma non sono la mia prima scelta, però questo è davvero grazioso, si chiama Have Yourself a Merry Little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles are of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay. Next year all our troubles melt away. Someday soon we all will be together. If the fairies are old, until then we love to matter through sorrow. So happy show, merry little Christmas della personalità di Alessio, si chiama semplicemente Wu. Thank you. Superato i 100 pezzi, quindi se ci mettiamo a fare bis non ce la finiamo più, ne facciamo uno però, tra i 100 ne abbiamo scelto uno che è la danza dei fiori, niente meno di Tchaikovsky, però anche questa in rivisitazione di Ellington e Strayhorn, si chiama Dance of Floriadores. Di Santo Scascinelli, che è il disegnatore di questo